Siamo con Lucia Fontanelli e adesso nella diretta. Esatto, non mi ricordo il cognome di Olivia. Teglia. Ok. Exit. E infatti mi stavo perdendo nel sito exitfestival.it. Yes. Che di recente pubblicazione, finalmente siamo riuscite a farci un sito. Quest'anno il nostro progetto è online, abbiamo una landing page in cui appunto è possibile leggere il programma del nostro progetto di quest'anno, che è un festival di pratiche partecipate e workshop. Sostanzialmente e performance che si tiene, perché è già cominciato, il 24 settembre ai Prati di Caprara a Bologna. Fantastico, è iniziato il 24 e 25 settembre e ci saranno però tanti altri appuntamenti, oserei dire almeno tre, subito? Più tre, sì, ma certo. I Prati di Caprara come sono messi adesso? Perché so che c'era stato tutta una cosa, perché è dovevano vero, diventare un sentito. Parcheggio, un centro commerciale, eccetera. Adesso che cosa sono? Un bosco ancora? Sono quello che erano, esatto, ovvero che un bosco, okay, che appunto, infatti, tutta questa, diciamo, diatriba sull'utilizzo, la funzionalizzazione di questo spazio, che è una zona residuale, che è sostanzialmente un bosco urbano che è nato in 50 anni di abbandono di una zona militare che poi è passata, diciamo, non è più di proprietà dei militari e che doveva essere, come dire, riqualificata e rifunzionalizzata in slash centro commerciale. Esatto, ma c'era stato anche un progetto, una proposta. Perché di un progetto, diciamo, di una scuola. Bologna ha bisogno di centri commerciali. Sì, no? Sì, è così. Ma dal 2016-2017 un comitato di cittadini e cittadine, che ha preso il nome di Comitato Rigenerazione No Speculazione, ha fatto tutto un lavoro di attivismo e quindi anche di difesa, sia, diciamo, anche di contrattazione, insomma, di collaborazione con il comune, per cui si sono imposti e sostanzialmente, essendo molti di loro anche scienziati nel, come dire, tutelare, esatto, proteggere questo spazio, invitare. Ero convinto di trovarvi impreparate, invece siete state bravissime. Ci hai voluto mettere alla prova, abbiamo studiato. Grande. E dunque fate un festival dentro ai Prati di Caprara. Raccontateci tutto, dai. Nel bosco. Ok. E abbiamo invitato 7 artisti a condividere delle pratiche e fondamentalmente attraversare questo spazio così anche poco conosciuto dai bolognesi stessi. Infatti io penso di non esserci mai stato, cioè ci ho girato attorno per andare all'ospedale, ma beh, è uno spazio che effettivamente esce e rimane un po' purtroppo invisibile in quella che è la narrazione della città, della nostra città di Bologna. E quindi il nostro invito è soprattutto quello di riscoprirlo insieme e invitare le persone a attraversare questo spazio che insomma è selvatico, si trasforma ogni giorno, di settimana in settimana. E credo che, insomma, sia un'esperienza di cui, insomma, penso che anche chi è di Bologna ha bisogno di riscoprire anche queste zone della città che sono così appunto sconosciute. Ma che giorni in cui si potrebbero scoprire sono, per esempio, il prossimo 8-9 ottobre, sì, vero? Esattamente, 8-9 ottobre c'è un programma di 4 workshop, 3 si terranno l'8 dalla mattina alle 9:30 fino alle 6 di pomeriggio. Saremo lì con 3 artisti e appunto le partecipanti e anche il giorno successivo. Sono appunto modalità di attraversamento e di abitazione temporanea di questo spazio. Appunto l'invito è, da un lato, sì, quello di scoprirlo, ma anche proprio di, cioè, ha una potenzialità a livello sotto tanti punti di vista, cioè in primis è proprio a livello anche ambientale, ecologico, una risorsa. Educativo. ma poi appunto è molto evocativo proprio perché è una parentesi rispetto a quello che è un progetto urbano, urbanistico, che è sempre più funzionalizzato, no? E anche capitalizzato rispetto a come si vive lo spazio nella città. Anche chiaramente è un luogo senza un fine in questo momento, cioè non ha uno scopo e quindi dona questo spazio, esatto, di libertà, del poter non sentirsi che è stato creato per qualcosa, no? Esattamente. Resiste un po' queste dinamiche, essendo semplicemente così selvatico. Certo. E poi ci saranno anche il 12 ottobre, se proprio l'8 e il 9 nessuno proprio non ce la fate. Proprio non ce la fate a passare neanche per un pranzo, un picnic. Esatto, o un workshop, giusto? Esatto, cioè, il workshop in brevissimo, facciamo una mini sintesi, ci sarà dalla mattina un laboratorio con un gruppo di scultori che si chiama Architecture, che lavora sull'estetica della discarica, e quindi faremo proprio anche una raccolta rifiuti. Perché questo sabato mattina. Okay. Beh, e sta. Poi nel pomeriggio si selezioneranno i materiali raccolti e si farà una, diciamo, installazione temporanea collettiva in una delle zone, diciamo, più aperte, più ampie, perché appunto essendo un bosco è di fatti fitto di vegetazione, ma ci da sono da che parte si entra, fra l'altro? Sai che non lo so. Ci sono diverse entrate. Ok. Questo weekend proveremo a dare un appuntamento su una diversa entrata che è proprio su Via Saffi, quindi c'è un netto passaggio tra la città e si entra subito nel bosco. Altrimenti dopo all'altezza di Via del Chiù, diciamo, dell'inizio di Via del Chiù. E l'altra entrata, che infatti Via del Chiù, fra l'altro, è una delle vie più sfigate di Bologna, perché a un certo punto finisce e comincia in un altro posto che è staccato, che è da un'altra parte. Infatti non si capisce perché non gli danno due nomi. Comunque, vabbè, non credo che ci sia qualcuno della parte urbana del comune di Bologna che stia ascoltando questo. Beh, ad ogni modo l'altro ingresso è infatti è proprio verso la fine di Via del Chiù, alla fine della ciclabile, dove c'è un ponticello c'è un buco nella rete e io ci passo, si entra da lì. Ah, addirittura. Beh, sì, comunque ve lo diciamo, lo diremo a tutti, che le persone che entrano con noi in questo spazio, comunque entrare ai prati di Caprara è un atto di disobbedienza civile. Ah, dai. Sì. Ho capito. Sì, è teoricamente illegale entrare ai prati. Okay. Quello che appunto noi facciamo insieme. Nonché detto disobbedienza civile, per chi non volesse così cullarsi in termini di disobbedisci. A me mi piace molto, ma disobbedienza civile. Che disobbedisco un po', ecco, volevo abbassare un po' questo casino. Sì, diciamo che è proprio appunto per via del fatto che ci siamo cominciati a interessare alle zone residuali come aree appunto che danno questo tipo di libertà. Anche proprio, cioè, in generale la città spesso è un po' opprimente rispetto, soprattutto, no, non lo so, noi Exit viene da una storia completamente diversa, cioè è nato nel 2017, prima come parte off di un festival teatrale, e diciamo abbiamo portato artisti emergenti dentro case di persone, giovani, lavoratori, studenti, e facendole incontrare con un pubblico e quindi creando appunto questi momenti di incontro molto intimi in tutti i sensi. Poi ci siamo spostate dentro dei negozi di alimentari, sempre diciamo continuando questa ricerca di una narrazione sull'incontro tra uno spazio pubblico e uno privato e modalità di condividere esperienze, diciamo, su una base di anche appunto esperienze di tipo estetico, ma in dei contesti, diciamo, non atti a questo, cioè non pensati, non fruiti normalmente per questo tipo di esperienze. E poi siamo arrivate a questo tipo di contesto in realtà proprio un po' anche in virtù della necessità di ritrovare dei luoghi diciamo più liberi in cui poter costruire letteralmente dei laboratori di non so come spiegarlo, mi viene da dire un po' pretenzioso, ma di libertà, sì, comunque anche proprio di umanità, cioè di modalità di stare insieme, che non siano finalizzate a uno scopo, diciamo, capitalizzabile, certo. O comunque anche a livello di condivisione di saperi e sì, di saperi e di pratiche che non hanno alcun tipo di scopo effettivo. Quindi diciamo pratiche, gesti e luoghi senza un fine, ma semplicemente per il puro godimento di ritrovare anche una genuità, una naturalezza di questa cosa, non uno strumento, dico bene? Sì, assolutamente. Io vi interrompo metterei un è perché lo dobbiamo raccontare. Siccome sono usciti aspetta che mi metto gli occhiali che non ci vedo una benemerita, ok. Allora, dov'è il nostro? Sì, perché oggi mi sono arrivati due pezzi. Uno è Tenedle, che è, si pronuncia così, credo. Ok. Anzi, salutiamo la Francesca Crispello che ce l'ha mandato. Ah, ma è un'immagine, ok. Che è musica elettronica che viene da Amsterdam, dall'Olanda. Ed è lui, l'avevamo già sentito qua. Cantautore, produttore, performer, sound designer, nato a Firenze e vive in Olanda, appunto. E ha fatto un nuovo EP che si chiama The Gift. E adesso ce lo andiamo a ascoltare. È uscito il 30 settembre. Dov'è? Qua. Eccolo. Vado. È partito, ma con calma. È molto silenzioso, è cominciato in maniera molto silenziosa. Suspense. Ecco. As a boy or a girl, my heart is from gold, like my soul. You turn up the light, the show may end. All that shit in standby. You find out how obscurity is made of love. Like infinity, we're made of love. Is a mess from lust to tenderness. No boy, need a girl, just a certo. Siamo di nuovo on air. Eravamo on air. Io non si è sentito niente di delle cose segretissime che delle cose segretissime che ci siamo detti. Siamo tornati e c'è qualcuno che ci vuole cantare qualcosa, giusto? Buongiorno, con voi parlo, vi parlo così, amori miei, che ascoltate tutto quanto, una musica che entra nelle orecchie ed è felice, ed è la radio che vi parla sempre con l'onda musicale. Io sono Marco Roma, boom boom. Boom boom. Boom boom, ormai hai capito che lo mettiamo in radio, perché è la prima così uscita didascalica che fa proprio dicendo è una radio che vi parla. Marco, infatti, Roma è il nostro. Questa era veramente, sembrava dedicata a voi due. Bello. È un super fan di Radio Città Fugico, direi. Manda ogni giorno una canzoncina così. ha trovato anche il suo slot finale che fa proprio ciao da Marco Roma, boom boom. Fa proprio super. E naturalmente Coxo Spaziale non poteva non metterlo siamo anche noi nel mondo, certo, esatto, ci fanniamo a vicenda. Esatto, ma stavamo parlando con Olivia Teglia e Lucia Fontanelli di un festival meraviglioso iniziato nel 2017 e giunto oggi, quest'anno diciamo, alla sua quarta edizione, su Exit Festival, che poi per un certo periodo era anche Exit 30-30, no? 2030 era proprio... si prendeva il cognome, esatto. da Festival 2030, che è questo festival teatrale da cui Exit è nato nel 2017, dove nel contesto in cui io e Lucia ci siamo conosciute, in effetti. Quindi, però sì, ora è solo Exit. Ha perso il cognome, sì, perché insomma ci siamo nel tempo, abbiamo continuato insomma il progetto per indipendentemente da questo diciamo contenitore dentro il quale era sorto inizialmente. Certo. E tra l'altro quest'anno ha anche un titolo, per la prima volta ha un titolo che un titolo muto, un titolo che non si può dire. Che non si può dire, non si dice. E, in realtà deriva da è un acronimo per noi che riguarda un po' la tipologia di pratiche, la direzione su cui lavoreranno e stanno lavorando gli artisti che abbiamo invitato, che sono un po' S di sguardo, quindi pratiche legate alla mappatura dello spazio, alla ricerca, all'osservazione, suono, quindi pratiche di ascolto, soundworks, soundscapes all'interno del bosco, spazio, quindi corpo, danza, camminare come azione di riappropriazione di questo spazio invisibile, e sito, perché è di fatto, si tratta di fatto di pratiche site specific, e anche un po' per uscire da questa idea di sightseeing, no? Che è spesso legato ai luoghi di grande importanza da visitare delle città, quando questo invece è un luogo che rimane un po' più al margine e che però merita allo stesso di essere conosciuto. E il tempo, la presenza nello spazio, l'intimità, la sparizione, la durata di queste pratiche, che sono effettivamente pratiche effimere, che non lasciano tracce nello spazio, ma che stavolta lo lasceranno in qualche modo. Sì, abbiamo chiesto a tutti gli artisti di consegnarci alla fine del workshop una traccia, uno scarto, un residuo, un'eccedenza del lavoro che abbiamo scelto di presentare come documentazione di tutto il festival, e diventeranno parte di una installazione che io e Lucia diciamo trasformeremo di giorno in giorno, e in questa mostra collettiva ad Adiacenze, che è una galleria del centro in vicolo Spirito Santo. Salutiamo Amerigo. Che conosciamo bene. Ciao Amerigo. Grande Amerigo. Andy Warhol e no altro. Esatto. Quindi a fine ottobre, dal 29 al 31, ci sarà tre giorni di mostra, diciamo che sarà di giorno in giorno diversa, perché abbiamo scelto di approcciarci con un tipologia di curatela performativa, per cui lo spazio sarà attraversato dal pubblico e modificato da noi durante queste tre giornate. Inoltre nello spazio, nel piano sopra di adiacenze, ci saranno delle talk, un programma di talk di alcuni esperti, esperte, ricercatori, geografe, curatori che abbiamo invitato, consultato in questi mesi, prima in forma così di dialogo spontaneo, anche perché abbiamo iniziato ad avviare un po' un confronto con altre persone che a Bologna si occupano di queste tematiche tra l'arte contemporanea e lo spazio pubblico. E gli spazi residuali, il comitato che sta seguendo insieme a noi le attività, e altri insomma che annunceremo presto in questa tre giorni di mostra e talk, che invece sono a fine ottobre. A fine ottobre, 29, 30 e 31. Ma bisogna prenotarsi in qualche modo per fare i workshop il prossimo weekend. Immagino che le talk siano forse libere, no? Ingresso libero, no? Esatto, sì, la mostra e le talk saranno aperte a tutte e tutti, e invece i workshop sono, diciamo, alcuni hanno anche un numero massimo di partecipanti, anche perché diciamo per questo tipo di condivisioni forse è meglio essere non tanti, non c'è bisogno di essere troppi. Quindi chiediamo a chi è interessato a partecipare di inviarci una mail, la nostra mail che è exit2030, scritto tutto in lettere, @gmail.com, e via mail diamo un po' di informazioni e chiediamo anche insomma una piccola, direi quasi simbolica, donazione per sostenere il lavoro delle artiste e del festival. Proprio perché comunque un festival è un programma che è totalmente indipendente in questo momento, appunto non abbiamo altri tipi di finanziamento se non quello che appunto ci possono dare le persone che vogliono sostenere il progetto e partecipare. Infatti avete fatto un crowdfunding per questo. Ancora attivo? Ancora attivo, e lo è fino... Dunque su coxospaziale.blogspot.com troverete il link per sostenervi. Esatto, tra l'altro lo trovate anche sul sito, che ripetiamo è exitfestival.it, e rimarrà attivo fino alla fine del mese, quando appunto si concluderà anche la mostra, alla quale sarà possibile anche ritirare poi ad esempio come si chiamano? I rewards, le ricompense. Le ricompense, esatto, grazie, che qualcuno sa l'italiano. Ah, e abbiamo scordato di dire che durante la mostra diciamo diffonderemo anche quest'altra parte della documentazione, che sarà invece in forma cartacea, sarà una piccola pubblicazione, una zine, che in due parti documenterà un po' il processo intero del festival. Una prima parte diciamo più legata a una nostra ricerca, riferimenti bibliografici, testi a noi cari e riflessioni che abbiamo fatto insieme anche agli artisti e agli altri ricercatori coinvolti, e una seconda parte che sarà più di documentazione di ciò che è accaduto nel bosco durante i workshop. Esatto. Volevo solo aggiungere, visto che non li abbiamo nominati fino ad adesso, i nomi degli artisti. In effetti te lo volevo chiedere, poi mi è passato. Incriminati artisti. Ho pensato i guanti, perché è da tutto il tempo che sto guardando i guanti, per cui volevo anche sapere dei guanti, no? Dopo ne parliamo dei guanti, ma prima facciamo i nomi degli artisti, visto che sono i 29 e fra un minuto dobbiamo fare le pubblicità delle 8:30. Allora, vai. Gli artisti di questa edizione di Exit sono Gaia Ginevra Giorgi, che è un artista, vabbè, le spiegazioni le faccio dopo. Come vuoi. perché abbiamo 30, un minuto. Allora, Gaia Ginevra Giorgi, poi Sara Cortesi, Enrico Malatesta, Marco Augusto Basso, Luca Conte, Bianco Sangue, Bianca Zueneli. Ah, ok. Ci manca architetto, sono in tre. Ok, e dunque le spiegazioni ce le raccontate dopo questa fantastica pubblicità delle 8:30. Che faccio partire anche se sono le 20:29. No, il mio cellulare dice 20:30. Eccola. Bisognerebbe capire il cellulare di Gozza qua, che ora fa. Un vero e proprio luogo di incontro. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando coxo spaziale. Ed eccoci tornati a Coxo Spaziale, dove abbiamo Olivia e Lucia che ci raccontano di Exit. Stavamo parlando degli artisti che partecipano ai vostri workshop e quant'altro. Ce ne volete parlare anche voi? Io conosco solo la, certo, Bianca Antonelli. Ah sì, beh, allora sì, dicevamo, abbiamo Bianco fatto questa Sangue. Bianco Sangue, che è un'artista bolognese, una danzatrice performer, mm-hmm, che si è formata in Belgio e da qualche anno è tornata, diciamo, attiva anche in Italia e sta portando avanti questa sua ricerca appunto performativa e nel workshop Hit Is Life Group Variations, uh-huh, condividerà, diciamo, il nucleo coreografico di questa sua danza, che è una performance che prende appunto il nome di Hit Is Life, un solo che ha concepito 2 anni fa ormai e che si basa sostanzialmente su l'incorporazione dell'immagine del sole e dello scorrere del tempo, e quindi ha basato questa sua ricerca sul movimento su soli movimenti delle braccia e variazioni sul cerchio. Wow. Quindi è una, diciamo, coreografia molto condivisibile, facilmente, diciamo, incorporabile da, mm-hmm, tutti i tipi di corpi, diciamo, senza, diciamo, specializzazioni o... Intanto salutiamo Ryanair delle 20:30. È in ritardo oggi, è in ritardo di 5 minuti. Poi... Però oggi fa caldo e teniamo la finestra aperta. Ah sì, di questa Hit Is Life Group Variations ci sarà anche una restituzione aperta al pubblico domenica, quando, okay, appunto si terrà il workshop, che inizia verso le 3 e la restituzione comincerà verso le 6. Ok. Ci sarà appunto anche un intervento sonoro musicale di Costanza Bortolotti, musicista con cui lei collabora per vari progetti, e in particolare con questo, con la quale appunto ha fatto una composizione ad hoc per questo solo. Poi, andando sempre nel programma futuro di questo weekend, dicevo, ci saranno Architecture, di cui prima avevo iniziato ad introdurre il lavoro. E io ti ho interrotto. No, forse io mi sono interrotta, okay, insomma. Vabbè, mi sono persa. Mm-hmm. Comunque loro sono un gruppo di scultori che lavora appunto sull'estetica della discarica e anche proprio con materiali di recupero, quindi partiremo da una raccolta di rifiuti per arrivare alla costruzione di un'installazione. Bella, e qui entreranno in gioco i guanti donati poco fa da Stefano, esatto. Guanti verdi con i fiori blu e bianchi che hanno una lunga storia. E sempre sabato inizia il workshop con Marco Basso, dal titolo Pratica, che è appunto, ma ne ho parlato prima, un vuoto, l'ho detto o no? Secondo me ne hai parlato in macchina, per cui i nostri ascoltatori non l'hanno sono sentito. Così confusa. Perché, no, ascoltatori, okay, non eravate in macchina, esatto, con noi? Dove sarebbe eravate? Tutto molto dove più eravate? Semplice. No? Sì, no, perché poi mi sento io ripetitiva e dico, ma sono io che perdo colpi. Comunque, Pratica di Marco Basso invece è un workshop tra pratiche e teoria, quindi sarà anche abbastanza discorsivo, tenuto da questo che è un artista emergente di Genova, che si muove tra la scultura e la performance, e che appunto ci ha proposto una condivisione a partire da una riflessione sull'abitabilità di questi spazi marginali intorno, diciamo, ai nuclei teorici del terzo paesaggio di Gilles Clément, e sulle, diciamo, tracce delle zone temporaneamente autonome, le TATS, e da qui appunto poi prenderà le mosse anche per proprio creare una restituzione performativa partecipata sempre domenica pomeriggio alle 6, quindi ci sarà un po' questo innesto, un incastro tra, esatto, tra loro due, tra Bianco Sangue e Marco Basso. Sabato abbiamo anche Chimere, che è un altro laboratorio, dalle 16 alle 18 con Luca Conte, altro artista di origine genovese che si muove tra la scultura e la gastronomia, uh-huh, e che ci propone invece una mappatura esperienziale, sensibile, sensoriale, diciamo più che sensibile, dei prati attraverso appunto pratiche di osservazione, di disegno e diciamo usando tutti i nostri sensi ricostruire collettivamente insieme a questo gruppo temporaneo di persone una mappa, quindi poi una restituzione visiva di questo luogo. Per cui si assaggerà il prato di Caprano? Diciamo di sì, tra l'altro lui si occupa anche di foraging, appunto di questa pratica di coltura delle erbe spontanee sostanzialmente. Quindi sì, probabilmente domenica in particolare, che lo faremo una seconda diciamo tranche di questo stesso laboratorio, si ripete in due date, in due orari uguale con due gruppi diversi di persone, quindi anche domenica mattina dalle 11 alle 13, e si concluderà con un picnic, quindi probabilmente potremo farcire i nostri panini della rucola che nasce spontanea ovunque tra ai prati di Caprara. Ci sono cos'altro abbiamo già individuato: rucola, origano, abbiamo menta. Anche conosciuto cose che non conoscevamo grazie a qualcuno del comitato che ci ha guidate. Sì, c'è una grandissima varietà di flora, perché diciamo dal punto di vista della vegetazione i prati di Caprara sono un bosco appenninico, cioè hanno tutte le varietà di alberi. Ci sono olmi, ci sono, aspetta, come si chiamano quelli che c'hanno ci sono tante varietà di alberi, ma poi ci sono anche commistioni di piante, semi che sono arrivate lì appunto trovandosi in città. Il vento ha portato anche piante che diciamo non sono proprie dell'ambiente locale. E come estensione comunque si tratta di 27 ettari di bosco. Ah, wow. Quindi è veramente molto esteso. Sì. Sì, non dirlo troppo forte perché sennò ci fanno un centro commerciale, sai com'è? No, per dirvi, l'altra settimana con l'altra artista che già ha condiviso il suo intervento, sì, che è Gaia Ginevra Giorgi. In effetti Exit è partito due settimane fa. Esatto. Ah, tra l'altro ci stiamo dimenticando di parlare anche di Enrico Malatesta, ma possiamo raccontarvelo dopo. Comunque Gaia Ginevra Giorgi, che invece è un'artista che si occupa principalmente di suono e paesaggio, ma anche scrittrice e autrice di poesie, e con noi ha condiviso questa pratica legata al paesaggio, partendo da modalità diciamo derivate dal situazionismo, quindi una deriva nel paesaggio. È stato particolarmente forte perché con noi appunto nel gruppo c'erano anche alcuni membri del comitato Rigenerazione e Non Speculazione che conoscono molto bene il bosco e anzi appunto si prendono settimanalmente cura dei sentieri che lo attraversano, eppure loro si sono riusciti a perdere attraverso questa modalità di diciamo antigeografica, no? Di esplorazione del luogo. E niente, con lei appunto abbiamo condiviso poi altre pratiche diciamo più di composizione legate a modalità performative appunto di abitare lo spazio. E un'altra artista che è stata con noi il weekend scorso è Sara Cortesi, una scultrice che ha portato con sé questo suo lavoro installativo, Rescue Kite, che è un aquilone ma anche una tenda, quindi gioca tra appunto la terra può essere radicato e diventare rifugio, e il cielo dove può volare ed essere diciamo un gioco, un modo per giocare insieme e anche per segnalare la presenza umana, perché è un lavoro che lei aveva concepito per una mostra all'Aquila e che appunto quindi è legato al contesto del post terremoto e che quindi rimaneva sospeso tra essere un tetto e essere una forma di aggregazione, di gioco in un contesto così appunto anche difficile di vita in uno spazio appunto che non è più diciamo abitabile in senso normale, non so come dire meglio di così. Say, I'm under the ceiling. Eccolo che ridono. Questi erano i The Root Workers e ringraziamo Nicola Di Peyote che ci ha spedito sto pezzo. Questo pezzo deve ancora uscire, esce venerdì. Wow. È il nuovo EP dei The Root Workers che si chiama Attack Blues and Release. Pensa un po' te, guarda cosa succede. Ci sono 30 secondi di silenzio e poi questo. L'angolo della menzione. Non sono pronta. Non sei pronta per niente, neanch'io. Ma ce l'abbiamo acceso. Ce l'hai aperto. Vai, allora leggi il primo. Comunque molto bello questo pezzo. Ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto molto. Allora, molto la prima cosa che segnaliamo, direi l'8 ottobre, giornata del contemporaneo. Esatto, perché lo segnaliamo? Perché c'è tempo fino al 7 ottobre per iscriversi alla giornata del contemporaneo, promosso da AMACI. Per partecipare all'edizione 2022 della giornata del contemporaneo sarà necessaria l'iscrizione entro il 7 ottobre tramite il forum disponibile al link giornatadelcontemporaneo.amaci.org. Molto bene, basta. Realizzato in collaborazione con Ashel. Ah, dobbiamo mettere lo stacco, che è così. Olè. Poi invece inaugura il 7 ottobre dalle 17 presso AF Gallery a Bologna la mostra Chimera, ideata dagli artisti Filippo Falaguasta, Giancarlo Norese e dal curatore Fulvio Chimento. Com'è che è partito così a palla sta musica di sottofondo? E il progetto artistico, che prevede la copresenza di alcune opere dei due artisti per tutta la durata dell'esposizione, è ideata in modo unitario e risulta strutturata in due movimenti. Dal 7 ottobre al 18 novembre l'attenzione è dedicata alle opere di Filippo Falaguasta e dal 25 novembre al 13 gennaio 2022 il focus, come 2022-2023, il focus si concentrerà sui lavori di Giancarlo Norese. Questa è alla AF Gallery in via Bersaglieri 5 e partiamo appunto il 7 ottobre dalle 17. Doppia inaugurazione allo spazio K-Known di San Lazzaro di Savena venerdì. Di Savena, venerdì 7, va bene, dai, non abiti a Bologna da abbastanza tempo. Okay. Venerdì 7 ottobre dalle 20 alle 23 e sabato 8 ottobre dalle 15 alle 23 con la mostra L'umanità degli oggetti, Jason Dodge e Giovanni Termini, a cura di Simone Ciglia, in via Imelde Lambertini 5 a San Lazzaro. Poi invece l'8 ottobre appunto è la giornata del contemporaneo, ci sono un miliardo di robe e il Mambo conferma la propria adesione. Gli eventi al museo aperti alla partecipazione del pubblico sono i seguenti. Giornata di studi sulla critica d'arte in ricordo di Giovanni Maria Accame, seconda edizione dedicata al tema dell'ecologia della parola, cura di Caterina Molteni e di Martina Cavalli. Questa è al Mambo, alla sala conferenze. Poi sempre sabato 8 ottobre 2022, Liminal, ritratti sulla soglia, workshop di fotografia per ragazzi di 11-15 anni con l'artista Francesca Cesari, sempre al Mambo, al Dipartimento Educativo. Sempre sabato 8 e domenica 9 abbiamo questo è sabato 8 e domenica 9. L'8 ottobre tutte le mostre sono visitabili gratuitamente. Dunque, oltre alle collezioni permanenti del Mambo e del Museo Morandi, tutte queste mostre, ovvero Sean Scully, A Wound in a Dance with Love, a cura di Lorenzo Balbi, che ce ne ha parlato qualche edizione fa di Coxo Spaziale. Poi abbiamo nella Sala delle Ciminiere, poi abbiamo No Neon No Cry, a cura di Gino Gianuizzi, nella Project Room del Mambo, e Recollecting, Morandi racconta il segno inciso tra teggi e chiaroscuri, che se non sbaglio sta durando tipo da un anno, perché l'ho intervistata, giuro che ho intervistato Lorenza Selleri agosto del 2021, sembra, e questo al museo Morandi, per cui insomma se siete di braccino corto e non avete ancora pagato per andare a vedere la mostra di Sean Scully al Mambo, sabato è il giorno giusto perché è gratis. E infine, se proprio ancora non sapete che cosa fare l'8 ottobre, dalle 17 alle 21, l'8 ottobre, Fioreria Tasini, in via Santo Stefano 46B. E in effetti non c'è scritto niente di quello che succede, ma perché però è una cosa molto bella. Io ho sentito che c'è gente interessante, fanno cose carine. Sì, no, è un evento curato da Anna Rosa Callegari, Giorgia Passini, che è la fioraia appunto, e Stefano W. Pasquini, che sarei io, e dunque non potete mancare, vi aspettiamo dalle 5 alle 21, dalle 17 alle 21, e c'è anche da mangiare la roba della Fustini, che salutiamo. Wow. Ah, c'è anche Lorenzo Lolli, Riccardo Lolli che canterà Me ne frega no, che wow. È la sua hit, è stata recensita sull'ultimo numero di Rockerilla, uno di questi cioè dopo 10 anni che è uscito sto singolo gliel'hanno recensito in una di queste, non è Rockerilla, non mi ricordo, è una rivista importante di musica, era molto contento, lo trovate sul mio Facebook. Bene, andiamo avanti con Exit, ma che è meglio. Comunque l'8 ottobre, ripetiamo, ci siamo anche noi dalla anche mattina, voi, infatti, esatto, assolutamente. E, ultimo ma non ultimo, ultimo solo perché sarà il 12 di ottobre, in mezzo alla settimana, è mercoledì. In realtà lo dovremmo dire la settimana prossima, ma lo diremo di nuovo, vero? Che tu sei. Assolutamente sì. Ricordati. Cominciamo a dirlo adesso, però, perché sarò da sola, quindi di solito le menzioni me le scavallo quando sono da sola. Sì, solo perché non so mettere jingle. Ho notato, infatti non so quanto Anna Ferraro di Fruit fosse contenta che non si menzionasse Fruit il weekend scorso, ma va benissimo così, tanto sì. Chi doveva venire è venuto. Allora anticipiamo la menzione per la settimana, esatto, prossima, che è l'ultimo appuntamento. Potresti dei registrarla workshop e rimetterla registrata. Infatti, è vero. Ti mandiamo un vocale se esatto, vuoi mandare esatto, in onda. Esatto, esatto, 333 180 94 94, ma mandi un vocale sì, in diretta. Tutti, esatto, coloro che vogliono dare delle menzioni, esatto, possono bellissimo mandare un vocale in diretta al 333 180 94 94, ma anticipiamo quella del 12, esatto, che è l'ultimo appuntamento dei workshop di Exit ai Prati di Caprara, ed è un workshop dal titolo Annotazioni superficiali con Enrico Malatesta, che è un sound artist, musicista, che maestro, è stato tra l'altro il nostro maestro che salutiamo, ringraziamo, che si occupa da molti anni appunto di suono. Lui nasce come percussionista, diciamo, e poi dopo appunto ha sviluppato questa sua ricerca anche appunto sull'acustica in generale, diciamo, su temi del suono anche dal punto di vista teorico, e porta avanti questa modalità di condivisione di pratiche dal titolo Annotazioni superficiali in varie modalità, in vari appuntamenti, diciamo, è una cosa che appunto lui porta avanti proprio nella sua ricerca. E che dire, condividerà pratiche di ascolto, sì, e guiderà i partecipanti ai Prati di Caprara insieme a lui da mercoledì 12 dalle 16 alle 18. Dalle 16 alle 18, vengo, segnatemi già. Ti aspettiamo. Prendo nota. Anzi, moglie mia, prendi nota anche tu, che dalle 16 alle 18 non ci sono ai Prati di Caprara, ma a quell'ora comincia già a essere buio. No, abbiamo controllato, diciamo, il sole tramonterà verso le 18:55. No, prima, alle 6:20 più o meno. Infatti finiamo alle 6. La settimana scorsa ho dovuto guardare anch'io perché dovevo andare a visitare uno spazio che non aveva l'elettricità. Infatti mi sono fiondato in autostrada che a momenti comunque, a scheggia per arrivare prima delle 19:20 era. No, infatti più o meno gli eventi in generale ai Prati di Caprara terminano tutti più o meno verso le 6. Mm-hmm. Domenica prossima si protrarranno fino alle 6:30, però appunto per questioni ambientali non c'è illuminazione. Mm-hmm. Quindi torce, gran torce. Quindi torce. Grandi torce frontali. Esatto, frontalini. E niente, quindi questo è il ricco programma di quest'anno e che si sta, insomma, delineando Exit. Poi tra l'altro quest'anno da quest'anno siamo parte, è un progetto di un'associazione culturale che abbiamo costituito quest'estate, quindi ancora neonata. Si chiama ASAP, è un'associazione di promozione sociale, non siamo solo io e Lucia, siamo in 8 e ci occupiamo di più cose, siamo architette, artiste, curatrici, grafiche e attrici, un sacco di attrici. E insomma, insieme adesso realizziamo Exit, ma realizzeremo altri progetti in più direzioni, quindi insomma vi invitiamo a seguire anche le attività della nostra associazione. Esatto, diciamo il nostro focus in generale, il contenitore nasce per dare vita a progetti ed eventi legati allo spazio pubblico e a pratiche performative, e quindi insomma Exit quest'anno è il primo progetto di ASAP. Yes. Come lo pronunciate? ASAP. ASAP. Alla vecchia. Alla vecchia. ASAP. Wow. Allora direi che possibile, giusto? Yes. Cioè vuol dire as soon as possible. Sì, sì, sì. Beh, bellissimo che ci siano queste iniziative. E naturalmente ci darete tutti i link che poi noi pubblicheremo su coxspaziale.blogspot.com. Sì. Yes. Wow. Direi che abbiamo chiuso benissimo questa stavo controllando. Poi mi sono distratto perché mi è arrivato un messaggio vocale di Norma Waltman che magari è una menzione, però non gli abbiamo detto di, non lo so, perché magari invece non lo è. Dice Stefano, vieni a bere, perché se vuoi lo metto il prossimo lunedì, dimmi che lo posso mettere lunedì prossimo. Norma, se me l'hai mandato per oggi, mi dispiace, lo posticipiamo a lunedì prossimo. Comunque salutiamo Norma che ci manda sempre un sacco di robe da guardare e da scoprire. Ed in effetti sono le 20:53 e dunque ringraziamo tantissimo Lucia ed Olivia di Exit e di ASAP. Grazie mille per i progetti che continuerete a fare, soprattutto anche perché è un nuovo inizio, mi sembra di capire. Esattamente. Ci vuole un po' di energia nuova qua a Bologna. Sì, io ero Stefano W. Pasquini. E io ero Mia da Schio su Piei. E ci salutiamo con le parole del nostro direttore che dice così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Vi volevamo salutare e ringraziare anche noi a voi. Ciao Stefano e Mia. Meravigliosi. Grazie. I'm not the one.